Eccoci a visionare il cinema su Radio Onda Rossa tutti i giovedì dalle 14 alle 15 e anche quest'oggi con un po' di anticipo. Tutte le informazioni sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, e per comunicare con noi potete scrivere a visionari@ondarossa.info. Potete ascoltarci in diretta, la frequenza ve l'ho detta, 87.9, ma potete anche ascoltarci in streaming sull'home page del sito, c'è Ascolta la diretta, e sull'home page del sito c'è anche Sostieni, per tutte le modalità per sottoscrivere a Radio Onda Rossa è stata estesa e ripristinata. Insomma, ci sono diverse modalità per sottoscrivere, perché come sapete, se non lo sapete ve lo dico, dal 1977, da quando è stata creata Radio Onda Rossa, va avanti senza pubblicità e senza padroni. È la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Ed eccoci con Alessandro Rossi di Mammut Film per parlare dei 10 anni di attività della Mammut Film, con un'iniziativa per festeggiare, appunto, si intitola Profondo Nord, sarà a Villa Ghigi a Bologna il 25 luglio prossimo, che è sabato. Alessandro, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai tuoi ascoltatori, grazie per l'invito, che è sempre molto gradito. Raccontiamo a chi ci ascolta, magari anche non conosce questa realtà, la Mammut Film, questi 10 anni di attività. Ma la Mammut Film è la società composta, creata e gestita da sottoscritto insieme a Michele Mellara, Francesco Merini e Ilaria Malagutti. Siamo produttori e autori, almeno 3 di noi, nel senso io, Francesco e Michele siamo registi, sceneggiatori, Ilaria invece è una produttrice in senso più stretto, e produciamo prevalentemente, anzi quasi esclusivamente, documentari, cinema documentario, che ha in questi 10 anni ha avuto la fortuna e anche forse un po' di merito di circuitare molto anche all'estero, quindi realizziamo documentari per, diciamo, un pubblico internazionale, un pubblico europeo, e spaziando in generi di racconto documentario differenti, dal documentario musicale al documentario su tematiche della globalizzazione come il verde urbano, le città, a temi invece più legati al più classico documentario antropologico, a seconda delle storie e delle passioni nel momento ci dedichiamo quindi a diversi tipi di racconto, e compiamo 10 anni, perché siamo nati nel 2005 e quindi ci sembrava una buona occasione all'interno dell'iniziativa estiva del Comune di Bologna, che si chiama Beh Bologna Estate, avere un momento in cui ci riproponiamo ai nostri spettatori, ai nostri amici, e gli raccontiamo un po' la nostra storia, e soprattutto festeggiamo assieme in un posto meraviglioso per chi è di Bologna. Villa Ghigi è comunque uno dei parchi più belli della città. Senti Alessandro, una curiosità, quanti sono i lavori più o meno che avete in listino? Ah, adesso è una domanda abbastanza complicata, ma saranno una quindicina di documentari prodotti, più qualche evento, diciamo, culturale, abbiamo sempre avuto dei momenti in cui siamo dedicati ad essere organizzatori di eventi. Nel 2005, proprio quando nascemmo, creammo questo cinecirco, cioè portammo film, documentari in giro con un cinema itinerante in giro per la provincia di Bologna, in posti anche abbastanza impervi. Quindi ogni tanto torniamo a un bisogno anche di incontro e di organizzazione di eventi, come appunto questo del 25 luglio. Ecco, raccontiamolo un po' questo Profondo Nord, Alessandro. Profondo Nord nasce da appunto è il nostro decennale, ma noi siamo nati nel 2005, pochi mesi dopo essere tornati a casa da un viaggio molto importante per la nostra formazione culturale e artistica, che fu un viaggio a Sudankula, oltre il circolo polare artico in Finlandia, al Midnight Sun Film Festival, che è un festival creato 30 anni fa dai fratelli Kaurismäki insieme allo storico e critico di cinema Peter von Baag, che ci accolse lasciandoci aperto uno spazio a una programmazione, diciamo, off festival, in questo luogo incredibile, in questo festival meraviglioso, dove noi montammo un nostro cinema, una tenda, per proiettare documentari e cortometraggi italiani di produzione indipendente. E di ritorno da quell'esperienza, che fu un lungo viaggio di un mese con un camper, un autobus, insomma fu un'esperienza molto forte, un gruppo dei partecipanti, quindi Francesco, Michele, io, creammo la Mammut Film. Quindi avevamo una sorta di riconoscenza verso questo estremo nord che ci accolse, che ci diede tanti stimoli, e soprattutto una riconoscenza specifica verso Peter von Baag, che è stato un grande del cinema mondiale e che è scomparso il settembre scorso, e che da quell'incontro nel 2004 rimase nostro amico, nostro frequentatore abituale della nostra città, perché era anche direttore del Festival del Cinema Ritrovato della Cineteca di Bologna. Senti, quindi abbiamo pensato di unire il 10 anni e un ricordo a Peter von Baag, per cui l'intera giornata è dedicata a Peter, ci saranno dei suoi documentari, ci sarà un ricordo speciale appunto dedicato a lui. Bene, senti, quante proiezioni, in che orari? Ma le proiezioni sono molte, nel senso che occupiamo un po' gli spazi del parco, perché la mattina e il pomeriggio proiettiamo in un posto molto fresco, che è il palazzino di Villa Ghigi, che è un cascinale della Fondazione Villa Ghigi, che ci accoglie per queste proiezioni. Iniziamo la mattina con tre documentari di Peter von Baag dalle 10, tre documentari che raccontano l'esperienza del festival, del Midnight Sun Film Festival. Si chiamano Sodankula Forever, sono tre documentari collegati uno all'altro, ed è una grande carrellata, rassegna di tutti i registi che sono stati ospitati in 30 anni di festival, quindi i più grandi nomi del cinema mondiale, che raccontano il loro rapporto con il cinema. Nel pomeriggio invece, a partire dalle 3, ci sono quattro nostri documentari meno visti, quattro film più piccoli anche forse della Mammut, che sono stati visti non tantissimo, almeno alcuni anche perché sono parecchio vecchi, quindi sono stati visti già più di 10 anni fa, altri perché hanno avuto una circuitazione minore in Italia, e soprattutto ce n'è uno che si chiama Pascoliana, che è girato appunto negli spazi di Villa Ghigi. Poi alle 6 abbiamo un incontro con Giorgia Ferrari, che è una studiosa di letteratura finlandese, e che insieme a lei e alla casa editrice Iperborea parleremo di cinema e letteratura finlandese. E poi si apre, diciamo, la parte più festa, per cui alle 7:30 con l'aperitivo c'è il concerto in acustico degli Avvoltoi, che sono una band beat di Bologna con la quale... Ricordo, dagli anni 90 gli Avvoltoi. Sì, sono un gruppo storico, e col tastierista, noi, è il nostro musicista, uno dei nostri musicisti di riferimento. E poi c'è una cena finlandese, aperitivo e cena finlandese, organizzata da Bernardo Bolognesi, che era uno che era con noi nel viaggio in Finlandia. Le cene e i pranzi sono a pagamento, il resto è tutto ingresso gratuito. E nella serata invece sullo schermo all'aperto, quindi nel cortile, nella villa, nel parco della villa, proiettiamo prima un omaggio appunto a Peter von Baag, che sono un'intervista che girammo nel 2004 quando andammo in Finlandia, e poi Steam of Life, che è un bellissimo documentario del 2012, mi pare, di finlandese, di due registi che pronuncerò malissimo, Jonas Bergal e Mika Otakainen, che racconta gli uomini finlandesi, le loro storie, le loro disillusioni, le loro gioie, i loro dolori, tutto però dentro le saune, per cui sono questi dialoghi tra uomini che fanno la sauna, quindi è uno degli elementi centrali della cultura finlandese, quindi è un viaggio molto curioso e particolare nella cultura finlandese. Alessandro, chiudiamo lasciando i riferimenti internet per saperne di più? Sì, si trova tutto sull'agenda di BE, quindi Bologna Estate 2015, ovviamente, sia sul nostro sito mammutfilm.it. Un abbraccio e alla prossima, Alessandro. Grazie mille, buon pomeriggio. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Alessandro Rossi di Mammut Film sull'iniziativa Profondo Nord per festeggiare 10 anni di attività Villa Ghigi a Bologna, sabato 25 luglio. Teresa Paoli, regista del documentario L'amore verticale, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ci sono. Allora, intanto la curiosità è legata a questo titolo, tutto attaccato, L'amore verticale, Teresa, dici un po'. Sì, allora, amore verticale perché si tratta dell'amore da madre in filo, per cui l'ho definito così, e è un tutt'uno, cioè l'ho visto come un tutt'uno con la madre, per quello che mi è venuto spontaneo attaccarlo. Senti, è stato al festival online Via Emilia Doc Fest, credo sia stato il più votato in assoluto. Raccontaci un po' la storia che racconti, Teresa. Esatto, allora sì, è la storia di una giovane mamma, Jessica, che subisce un lutto prenatale. È qualcosa di cui si conosce molto poco, cioè non viene considerato socialmente, mentre sappiamo che in Italia circa 2000 bimbi muoiono negli ultimi mesi della gravidanza e circa 1000 subito dopo il parto. E questo, il fatto che sia stato il più votato online, significa che ci sono tantissime persone che sono coinvolte da questo lutto, anche se non se ne parla. È stato lì quello il motivo per cui ho voluto raccontarlo. Senti, al di là delle istituzioni c'è qualcuno che però che segue queste vicende? Sì, sono pochi. C'è un'associazione in particolare, Ciao La Bons, che ha coprodotto e distribuirà il film, anzi lo sta distribuendo, che si occupa di questo da diversi anni, proprio perché la dottoressa Ravaldi, che è una psicoterapeuta, ha avuto lo stesso lutto, per cui ha iniziato a parlarne e a lavorarci, proprio perché l'Italia è l'unico paese occidentale che ancora non ha una procedura specifica per affrontare il lutto dei genitori che subiscono questa tragedia, e non ha un vademecum, mentre al nord, insomma nord Europa, in Canada, già si è avanti da questo punto di vista, perché a volte basterebbe poco per cercare di aiutare i genitori. Senti, Teresa, come è nata l'idea di farne un documentario e come hai deciso di approcciare? Allora, l'idea è nata, io stavo lavorando su un documentario sulla maternità, proprio perché si dà sempre scontato la maternità alla mamma italiana, però in realtà io ho visto che l'Italia è molto indietro nel sostegno delle madri, è tutto demandato alla buona volontà delle singole persone e non c'è niente di veramente istintivo in tutto ciò, quindi mi è venuta in mente questa idea. Poi è successa questa cosa a Jessica, in realtà è una persona che conosco benissimo, a cui sono molto legata, e in una specie di confessionale lei ha iniziato a raccontarmi i suoi sentimenti, il suo stato d'animo proprio davanti alla telecamera. Allora io non ho più smesso di seguirla e l'ho seguita per circa un anno nelle varie tappe. L'ho raccontato con due linguaggi diversi: da una parte il linguaggio osservazionale, tipico, insomma, documentaristico, dall'altra con delle fotografie che ha fatto Pamela Maddalena, che è una fotografa, in questo momento vive a Parigi. E questi due linguaggi si completano, perché io ho deciso di lasciare il racconto, quello specifico, concreto, di quello che è successo a lei in ospedale, con l'incontro con i medici, eccetera, eccetera, alle fotografie, proprio perché l'ho ritenuto, ma anche la mia protagonista l'ha ritenuto quasi inenarrabile. Allora l'abbiamo lasciato raccontare da alcune fotografie evocative, non descrittive, che sono riguardano più il sentire che, insomma, che effettivamente cosa ha visto lei. Senti, una curiosità rispetto a questa struttura che segue le madri che subiscono questa perdita, quali sono gli strumenti per aiutare a superare questo lutto? Il primo strumento penso che sia l'ascolto. L'ascolto. Cioè, mi ricordo che quello che mi diceva Jessica, ma anche le altre madri, quello che veramente dava fastidio e le colpiva è che non fosse riconosciuto dagli altri. Cioè, una settimana dopo questa perdita già si diceva: ah vabbè, tanto non l'hai conosciuto, ah vabbè, allora torni al lavoro, insomma ti sei rimessa, come se fosse una cosa qualunque, mentre in realtà loro avevano bisogno semplicemente che si capisse che loro avevano diritto al dolore, quindi l'ascolto e la pazienza, il diritto al dolore. E poi altre cose molto, molto semplici in realtà da attuare in ospedale, per esempio una procedura collaudata con le ostetriche e le infermiere, che far vedere il bambino alla madre, che non sempre è possibile, a volte dipende proprio dalla struttura dell'ospedale, perché proprio per far superare e elaborare questo lutto, che non è una procedura ancora standardizzata. Senti, dicevi che ha avuto chiaramente un suo percorso festivaliero, c'è questa possibilità adesso di distribuzione. Ci puoi dare qualche riferimento in più per saperne maggiormente? Certamente, la distribuzione è dell'associazione Ciao Lapo Onlus, anche questo si scrive tutto attaccato Ciao Lapo, e si può trovare tranquillamente su internet, ha un sito e dei riferimenti, e chi se ne occupa è la dottoressa Claudia Ravaldi, che fa tanti incontri, conferenze anche internazionali a livello scientifico, e tutte le volte si porta il suo DVD, ma si può tranquillamente chiedere anche online contattando l'associazione. E rispetto ai tuoi lavori, hai un tuo luogo internet? Io ho un Vimeo, sì, un classico Vimeo da filmmaker, vimeo.com, su Teresa Paoli, e lì mi potete tranquillamente contattare. Bene, bene. Tramite messaggi, sì, sì. Allora, Teresa, io ti ringrazio, un abbraccio, magari ci sentiamo per i tuoi prossimi lavori. Grazie, grazie a voi. Un abbraccio, ciao. Ciao, ciao. Teresa Paoli, regista del documentario L'amore verticale. Abbiamo in linea Chiara Zilli, regista del documentario Io voglio le ali bianche. Ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa, Chiara. Buongiorno a voi, grazie mille per l'invito. Ci eravamo sentiti, è passato ormai un po' di tempo per un tuo lavoro precedente. È vero. Senti, è questo vero. Mi incuriosiva, a partire dal titolo, raccontacelo un po'. Il titolo Io voglio le ali bianche in realtà è nato durante la fase di montaggio, perché per molto tempo il film è rimasto senza un titolo. Poi mentre montavo mi sono resa conto che questa frase che dice il figlio della protagonista, che è Alessandra, una cantante di strada, il suo bimbo che all'epoca aveva 3 anni le dice: mamma, anch'io voglio le ali bianche, guardando fuori dal balcone aspettando che la mamma le insegnasse a volare, e Alessandra gli dice: io vorrei le ali bianche, e lui gli risponde: anch'io voglio le ali bianche. Mi sono un po' identificata con, e anche lo spirito del film si è un po' identificato con questa voglia infantile di superare tutti i limiti e lasciarsi andare, e da questo è nato il titolo. Com'è partito tutto? Tutto è partito in realtà da un altro percorso completamente. Io pensavo che sono ritornata in Salento pensando di occuparmi ancora di temi ambientali, volevo fare un lavoro sulle energie rinnovabili, però diciamo fatte in modo sostenibile, quindi con l'autoproduzione. Avevo cominciato a dare con questa famiglia salentina che sono i Mangia, che poi comunque sono rimasti nel film, occupandomi di questo. Mentre poi passeggiavo per la città, ho sentito Alessandra cantare, mi è arrivato prima il suono che il viso, e questo canto mi ha creato proprio un buco dentro, una voragine, e quindi in quel momento c'è stata proprio la realtà che mi ha preso la mano e mi ha portato da un'altra direzione, e io ho deciso di seguirla, quindi ho cominciato a filmare con lei, e mentre filmavo con lei mi sono resa conto che mi sarebbe piaciuto in realtà raccontare la sua storia. E com'è la storia appunto di una cantante di strada? È una storia molto particolare, perché come posso dire, lei e un po' in questo ci siamo ritrovate, attraverso diciamo il suo canto per strada si è creato un po' un suo mondo, fatto molto di risonanze, perché spesso e volentieri non interagisce più di tanto verbalmente con le persone che l'ascoltano, ma appunto la comunicazione con le persone direttamente da anima a anima, c'è questo suono che arriva e una reazione emotiva da parte delle persone che l'ascoltano. è un'energia che vibra insieme al suono, e quindi quando lei canta e crea questo suo mondo, difficilmente esce da lì. Si è creato questa bolla magica che poi riporta anche nella sua vita quotidiana, perché comunque è molto fatta di sempre gli stessi percorsi, gli stessi vicoli, le stesse passeggiate, in uno stato quasi sempre un po' di contemplazione, ecco, se vogliamo, meditativo, ecco, se così vogliamo dire. È sempre tutto molto filtrato dalla musica, quindi l'avvolge un'energia particolare che ripeto, lei riesce a impregnare anche la sua vita quotidiana, che mi aveva molto colpita, e ho cercato di un po' restituire visivamente, raccontare questa atmosfera magica che lei mi ha comunicato, e il suo modo di vivere anche la quotidianità mi aveva comunicato. E proprio a proposito di atmosfera magica, volevo sapere com'è stata la relazione tra te e lei, e tra lei e le riprese. È stata ovviamente una relazione fatta di alti e bassi, perché il documentario comunque è stato il documentario, il processo filmico che ci ha in un qualche modo messo in relazione e accompagnato, quindi questo significa che man mano che le cose accadevano la relazione si modificava di conseguenza, perché io, come ho raccontato prima, non avevo chiaro sin dall'inizio che cosa stavo facendo, sono partita da tutt'altro, poi ho incontrato lei, all'inizio pensavo che volevo raccontare solo la sua storia, poi invece alla fine ho capito proprio attraverso la relazione con lei che il suo racconto, il suo ritratto sarebbe stato incompleto se non mi fossi messo in gioco io, perché in realtà l'incontro con lei ha poi fatto scaturire tanti cambiamenti anche in me, e quindi ho capito che questo processo, diciamo, bidirezionale era in realtà il cuore del racconto, e quindi che per forza di cose, in un certo senso, dovevo accettare anch'io di mettermi in gioco e quindi passare anche dall'altra parte, insomma, delle riprese, dall'altra parte della macchina da presa. Quindi è stata una relazione appunto di alti e bassi, che poi si è stabilizzata comunque in una grande amicizia che rimane tuttora. Senti, la musica e la voce in strada, che peso riescono ad avere? Che importanza, che attenzione riesce ad attirare? Ma secondo me tantissima, da quello che io ho potuto vedere, perché veramente ci sono tante persone che si fermano ad ascoltarla, nonostante poi Lecce, il centro storico, sia comunque pieno di artisti di strada, cioè è proprio la voglia di libertà e di espressione e di comunicazione senza troppi condizionamenti che si riversa in strada e a seconda se una persona lo vuole accogliere o meno, però comunque diciamo, questa energia che si muove per strada comunque crea dei cambiamenti anche a livello visivo, urbano e nell'interiorità delle persone, per cui secondo me ha un peso molto forte. Devo dire che qui a Lecce ormai si sono abbastanza, cioè le persone sono abbastanza abituate, ecco, perché non è un fenomeno che succede soltanto nella bella stagione, in primavera, tutto l'anno che è così. Sì. Senti Chiara, io mi sono accorto di questo lavoro proprio grazie al Salina Dog Fest, quindi lo scorso autunno, e poi che percorso hai avuto? Che percorso ho avuto? Allora, poi il film è stato accolto anche al Festival del Cinema Europeo qui a Lecce, e sono stata molto felice di questo, perché appunto ho avuto anche poi la possibilità di condividerlo in città, ecco, è la cosa a cui tenevo molto. A livello, diciamo, di altri festival o di altri percorsi anche così distributivi, pago un po', diciamo, il prezzo di un lavoro che comunque mi rendo conto essere un po', voglio dire, questa intimità difficilmente magari, ecco, incontra quella che può essere gli interessi di una programmazione di un festival che magari ha già le sue direttive, per esempio al Salina, con la tematica comunque era donna e Mediterraneo, puntava molto sull'incontro di donne, e allora lì il film ha potuto trovare un'accoglienza. È un percorso molto difficile perché è un film particolare, e poi comunque l'autoproduzione, sappiamo, sei meglio di me, che crea certo, dei vincoli, no? Certo. Cioè, nel senso che comunque si è un po' soli, e quindi poi quando si arriva alla fase di diffusione si è anche un po' tanto stanchi, con poche risorse. Spero che succedano altre cose, anche se comunque il film è uscito in autunno, perché succede comunque che magari, anche avendolo visto solo ad un festival, due, comunque mi scrivono persone che sono interessate. Ecco, ecco, a questo proposito, in chiusura ti chiederei, Chiara, dei riferimenti, se, per saperne di più, sia su questo documentario che sulla tua attività più in generale. In rete dove si può cercare? No, in rete non l'ho ancora pubblicato, e adesso sto diciamo, sto valutando alcune proposte che mi sono state fatte per distribuirlo attraverso un catalogo online, per cui non appena questa, diciamo, questa operazione va in porto, finalmente ci sarà la possibilità di visualizzarlo, di acquistarlo, di scaricarlo direttamente in rete. Ma tu hai un sito o una pagina? Sì, io ho la mia pagina Facebook, okay, dove comunque ci sono tutte le informazioni relative al film e alla mia attività. Adesso sto comunque lavorando su un progetto nuovo, sto partecipando a un percorso creato dal Milano Film Network che si chiama In Progress, dove appunto sono stati selezionati una ventina di soggetti di documentario che vengono poi accompagnati nella fase di sviluppo creativo e anche produttivo, quindi sto lavorando in questo senso adesso. Bene. Chiara, io ti abbraccio e ci sentiamo alla prossima. Grazie mille, speriamo che non sia per altri 5 anni. No. Allora a presto, dai. A presto, grazie. Ciao. Chiara Zilli, regista del documentario Io voglio le ali bianche. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Le informazioni sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, alla voce trasmissioni Visionari, la pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Bene, ritroviamo Folco Quilici. Ci sei, Folco? Eccomi, sono qua. Ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa per quest'altro tuo lavoro, Sicilia 43. E ci siamo sentiti un paio di mesi fa e per un altro lavoro sugli animali nel primo conflitto mondiale, e due documentari che si occupano in modo differente dei due conflitti del Novecento, la prima e la seconda guerra mondiale. Sicilia 43, sì. Folco, di cosa parla? Dunque, parla di un periodo molto importante della storia italiana, di cui però ci siamo tutti occupati molto poco, perché era il luglio del 43, cadeva il fascismo, Mussolini imprigionato, tutti i casini politici che c'erano a Roma, e praticamente questo sbarco in Sicilia e le battaglie che sono seguite prima con gli italiani, ma subito dopo soprattutto tra gli angloamericani e tedeschi, sono state una molto dure, molto complicate, e infatti quello che doveva essere un'operazione di pochi giorni per gli americani, per gli alleati, durò un mese e mezzo. In realtà c'era molto materiale. Una volta mi era capitato di dare un'occhiata a questo archivio che ha l'Istituto Luce, c'è moltissimo materiale sia girato dagli americani sia in parte anche molto prezioso girato dai tedeschi, non so come poi l'avessero anche salvato, e quindi era una storia poco nota, è una storia poco nota agli italiani, molto poco nota, accaduta in quel periodo dell'estate del 43, dove in Italia tra i bombardamenti, appunto la caduta del fascismo, gli arresti, le fughe e via discorrendo, ci si occupò poco di quello che accadeva in Sicilia. Senti, che è però casa nostra. Senti Folco, ci sono vari punti che sono rimasti molto molto poco chiari. Molto poco chiari. Folco, volevo chiederti come ti sei imbarcato in questa avventura, in questa ricerca. Ma come tanti altri lavori che ho fatto con l'Istituto Luce, cercando con molta pazienza, con l'aiuto di qualcuno dell'istituto molto esperto nel materiale che hanno nell'archivio, cercando migliaia, tra migliaia e migliaia di metri, quelle pochi buoni che mi potevano servire, e nel frattempo abbiamo trovato anche del materiale dell'esercito tedesco, e quindi poi siamo andati a girare nei luoghi, ovviamente, sì, sia dove è avvenuto lo sbarco nel sud della Sicilia, sia tutta la campagna sotto l'Etna fino a Messina. Ecco, proprio a questo quindi proposito, è un viaggio sì, attraverso la Sicilia, naturalmente anche Palermo, anche soprattutto anche Catania, con del materiale di vecchio ormai di 70 anni, ma nello stesso tempo ancora sconosciuto agli italiani, perché allora, a parte, non c'era ovviamente la televisione, c'erano i cinegiornali, ma in quel periodo non trasmettevano certo queste immagini. E poi dopo c'è stato uno strano disinteresse per le vicende della Sicilia in guerra, e come se la guerra fosse poi ricominciata da Roma in su, insomma. Sì, sì, sì. La curiosità, Folco, ecco, rispetto a questo materiale d'archivio a cui hai avuto accesso e alle nuove riprese che hai effettuato andando proprio in Sicilia, volevo chiederti come hai deciso poi di strutturare il lavoro, come hai integrato le immagini di oggi a quelle di ieri? Ma le ho integrate anche con un po' di rabbia, nel senso che, come hanno fatto benissimo i francesi, dove si sono svolti i combattimenti degli sbarchi del 44 in Normandia, dove sono stati avuti i più importanti scontri, anche in Sicilia ci sarebbe una, se avessero voglia di occuparsi della loro, del loro turismo, ci sarebbe un enorme interesse per inglesi, ma soprattutto americani, di ritornare nei posti dove sono avvenuti dei combattimenti molto importanti, dalle porte di Catania, dove sono avuti gli sbarchi, sul canale, sullo stretto di Sicilia soprattutto, ma anche sotto l'Etna, insomma parti dove ancora si intravede qualcosa, ma nessuno ha curato nulla di questi, come dire, ricordi di guerra. Per cui sono quelle poche cose che avanzano, sono molto abbandonate a loro stesse e c'è poco interesse, quando invece potrebbe essere uno spunto, non quello solo, ma certamente uno spunto per il turismo anglo-americano e anche tedesco. I tedeschi hanno molto combattuto in Sicilia e hanno combattuto pure bene, perché in pochi hanno tenuto testa un mese e mezzo a un esercito 10 volte superiore, quindi anche i tedeschi avrebbero molto interesse a vedere dove hanno combattuto, dove sono riusciti a resistere, eccetera eccetera, però non c'è nessuna, come dire, cultura su questo, nessuna. Senti, rispetto ai materiali inediti a cui hai avuto accesso, volevo chiederti, ci sono alcuni elementi che ti hanno veramente sorpreso? Beh, intanto mi ha sorpreso moltissimo, e nessuno capisce come mai, nessuno sa il perché, ho letto libri, ho fatto interviste, nessuno si sa spiegare come mai, quando gli angloamericani sono arrivati a Messina, città, l'hanno occupata, si sono installati, e i tedeschi sono rimasti su quella punta della Sicilia a 10 km di distanza sotto il loro naso, e si sono tutti riorganizzati una loro dipartita dalla Sicilia ordinatissima, attraversando lo stretto di Messina, e sotto gli occhi degli angloamericani, che avevano aerei, navi, forze, potevano fare quello che volevano. Viene il sospetto, anzi viene secondo me la certezza, che ci fosse una sorta di accordo, dicendo vabbè, non combattiamo più, voi andate, levatevi dalle scatole, perché non è concepibile, è una distanza minima, cioè da alcuni punti alti di Messina si vede dove erano i tedeschi, quindi sono pochi chilometri. Su quella spiaggia loro hanno organizzato una partenza ordinata di feriti, di carri armati, di cannoni, con le barche avanti e indietro con la Calabria, e hanno fatto andare via il loro contingente. Come e perché nessuno gli abbia dato noia, avendo avuto l'assoluta maggioranza, l'assoluta padronanza del cielo e del mare e della terra, speriamo che qualcuno un giorno scopra perché. Senti Folco, che vita avrà Sicilia 43? Ci sarà una distribuzione? Dai, tutto luce. Okay. Noi abbiamo vinto un premio di qualità del Ministero, abbiamo così un nostro piccolo guadagno, diciamo, ma certamente inferiore a quello che abbiamo speso. Comunque, ma soprattutto di tutto luce, potrà, appena si capisce meglio come sarà riorganizzata questa RAI, quando nei prossimi due mesi dovrebbero esserci dei grandi cambiamenti, per cui è inutile parlarne adesso, poi è luglio, agosto, non è il momento di fare trattative, ma appena a settembre se ne riparla. Tra l'altro il film è stato presentato con molto successo al Festival Cinematografico di Taormina. Taormina, ok. È andato molto bene. Bene Folco, quindi avrà la sua vita, sarà vita naturalmente limitata e difficoltosa come quella di tutti i documentari, però se la RAI farà veramente questa rete tutta culturale, documentaristica, storica, etnica, politica, ma non diciamo con i diversivi della fiction, questa rete, la terza rete, potrebbe, speriamo, possa diventare la sede dove il documentario potrà essere visto. Bene Folco, io ti ringrazio, un abbraccio e a questo punto ci risentiamo per la prossima. Ecco, e soprattutto spero che quando uscirà il film tu possa vederlo e accorgerti che ti ho raccontato solo una parte delle tante cose che si raccontano in quel film. Vorrei solo aggiungere una cosa che mi sembra molto importante. Nel film ho documentato come gli americani, non gli inglesi, gli americani avanzando erano delle truppe scelte tra una bassa forza americana, per cui commise un sacco di delitti. Ah. Molti dei quali stanno venendo alla luce adesso, cioè fucilazioni, ammazzamenti immotivati, perché i siciliani non facevano nessuna resistenza, e ci sono stati veramente degli episodi molto molto tristi di questa liberazione della Sicilia. Bene, bene, ci informeremo allora, speriamo, ecco, di vederlo presto. Un abbraccio Folco e a presto. Buon lavoro e auguri, ciao. Ciao, ciao, ciao. Folco Quilici, regista del documentario Sicilia 43. Eccoci con Francesco Russo, regista del documentario Zero Per. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, Francesco. Ciao, grazie a voi. Ciao. Zero per parlare di ludopatia, giusto? Sì, ludopatia. Allora, raccontaci un po' di questo lavoro. Ma allora, Zero Per è un documentario di 52 minuti e riguarda il gioco d'azzardo, o meglio la ludopatia, cioè appunto la dipendenza dal gioco d'azzardo, che è, diciamo, un fenomeno che in questi ultimi anni si è largamente diffuso nel nostro paese. E niente, l'idea del documentario nasce, diciamo, appunto dall'urgenza di voler denunciare questi dati piuttosto sconfortanti, ecco. Dati appunto che, come dicevo prima, riguardano l'Italia, cioè che è il secondo paese al mondo per diffusione del gioco d'azzardo, per un volume d'affari, diciamo, tra gli 88 e i 94 miliardi di euro, quindi insomma stiamo parlando di cifre enormi, rispetto alle quali esiste una larga fetta di popolazione che ne usufruisce e spesso appunto insomma ci rimette, ecco. Sì. E niente, per cui io ho voluto raccontare un po' alcune storie tratte da una un'associazione di ex giocatori d'azzardo di Udine, in particolare di Campofomito, che è in provincia di Udine, e niente, sono storie praticamente che raccontano un po' il passato, cioè raccontano un po' le caratteristiche, anche un po' le cause che hanno determinato poi la dipendenza dal gioco d'azzardo, raccontano anche un po' il percorso terapeutico affrontato e quello che diciamo i vantaggi che ne sono derivati da questo percorso terapeutico. Insomma, è un documentario piuttosto complesso che in qualche modo cerca di anche mettere in mostra i lati negativi chiaramente di questo fenomeno del gioco d'azzardo, cercando anche di informare chi magari oggi è affetto da questo tipo di dipendenza, metterlo in guardia, in qualche modo anche suggerire quale potrebbe essere la strada migliore per uscirne. Perché spesso i giocatori d'azzardo tendono a nascondersi o comunque a evitare di parlarne proprio per una questione legata, non so, alla vergogna, alla propria debolezza interiore, ecco, per cui spesso e volentieri, insomma, la famiglia non sa di avere un problema simile all'interno, per cui proprio per questo ho cercato di trattare questo argomento in maniera tale che chi oggi ha questo tipo di problema, guardando il documentario, magari possa avere il coraggio di affrontare la questione insomma, riprendersi la vita, ecco. Sì. Tra l'altro, per fortuna non è il primo lavoro che incontriamo strada facendo legato a questo argomento, quindi c'è attenzione verso il fenomeno. Il titolo Zero Per, Francesco? Allora, Zero Per è praticamente diciamo il Tetris, no? Il Tris, non so, quel gioco che si faceva alle scuole elementari, dove si divideva si creava una tabella. Noi a Palermo questo tipo di gioco lo chiamiamo Zero Per, e sono voluto partire proprio da lì, nel senso che simbolicamente da un gioco creato ad hoc per i bimbi, nel senso che da ragazzini ci si giocava, ci si divertiva. Oggi invece cos'è diventato il gioco, tra virgolette, d'azzardo, no? Sì. Cioè, nel senso, come era prima per noi l'azzardo, cioè di dover azzeccare il quadro giusto, oggi invece è tutt'altro. Oggi se fai lo stesso gioco a una slot machine ci metti una marea di soldi. Sì. Senti, Francesco, allora, rispetto a chi soffre di ludopatia, quali sono le caratteristiche che accomunano queste persone e quali i mezzi per superare questo problema? Ma diciamo che ciò che accomuna queste persone sono un unico elemento che riguarda il loro passato, i loro lati bui del loro passato e anche del presente in famiglia. Sì. Sono persone che hanno avuto parecchi traumi, insomma, nella loro vita, insomma, in passato, e che poi sono sfociati in queste manie, insomma, però allo stesso modo sono persone che è accompagnata da una grandissima sensibilità, tant'è che i personaggi da me intervistati, con loro si è instaurata un'amicizia al di là, appunto, dell'occasione stessa, insomma, del documentario. Sono persone che comunque hanno riscontrato, cioè hanno comunque come dire, capito, si sono ferite da sole, in qualche modo da sole, con grande forza, grande energia e anche coraggio, insomma, ne sono uscite da sole, insomma. Per cui io credo che ci voglia tanta determinazione, però tutto questo avviene, secondo me, attraverso la spinta di qualcun altro, cioè attraverso comunque la considerazione che qualcun altro può avere di te. Sì, in questo sì. caso è stato appunto il dottor Rolando De Luca, che è il psicoterapeuta dell'associazione Agita di Campo Formido, e lui, diciamo, è stata la persona che ha dato maggiore forza, maggiore motivazione a queste persone per poterne venire fuori. Sì. E non a caso appunto i corsi di terapeutici, insomma, durano parecchi anni, anche potrebbe anche durare 10 anni, sì, sì, sì. Un percorso terapeutico, per cui insomma per affrontare un simile percorso così lungo, insomma, nel tempo, è chiaro che deve avere tu stesso una grande forza, una grande determinazione, ma al tempo stesso ci vuole qualcuno a fianco a te che ti accompagni, ecco. Sì. Oh, Francesco, al di là delle storie individuali, tu all'inizio parlavi di cifre, di grosse cifre, quindi la domanda che mi viene in mente è il ruolo, ad esempio, dello Stato e delle organizzazioni criminali in questo fenomeno. Sì. Beh, sicuramente lo Stato, cioè il tutto comunque avviene nella totale mancanza, diciamo, di politiche per la prevenzione e la cura. L'Italia è il paese in Europa in cui si gioca di più, in assoluto, ed è quello allo stesso tempo con una delle legislazioni più arretrate in materia, con un quadro, diciamo, normativo piuttosto insufficiente ad aggredire questo tipo di fenomeno. Chiaramente le organizzazioni criminali, rispetto a questa mancanza, fanno il loro gioco, e stanno lì e chiaramente ne approfittano. E torno a dire, secondo me in Italia ci vorrebbe una maggiore, intanto, informazione rispetto a questo tipo di fenomeno. Cioè capire perché negli ultimi 10 anni, per esempio, il gioco d'azzardo si è trasferito anche all'interno degli uffici postali. Cioè uno magari può anche chiederselo perché. Per cui in Italia c'è parecchio lavoro da fare ancora. Sì, sì, sì. Poi se parliamo di cifre possiamo anche dire che in Italia sono, diciamo, quasi 15 milioni i giocatori d'azzardo, di cui 250.000 sono i ragazzi tra i 15 e i 19 anni che oggi appunto sono a rischio, cioè ragazzi a rischio. Ti ripeto, secondo me questo è un problema che chiaramente si tende a nascondere, forse perché è troppo scomodo a certe organizzazioni, e quindi e per altri versi troppo comodo lasciarlo Com'è? Così e per altri versi è troppo comodo invece lasciarlo così. Certo. Francesco, in chiusura ci lasci dei riferimenti internet per saperne di più sul tuo documentario e sulla tua attività più in generale? Sì, allora, rispetto al documentario è possibile vederlo integralmente all'interno della mia pagina Vimeo, diciamo digitando Francesco Russo, vero, per rimettersi in gioco, viene fuori appunto il link del documentario in versione integrale. Bene. Per quanto riguarda invece insomma progetti futuri, adesso sto lavorando a un altro documentario, diciamo, sul problema dell'inquinamento ad Augusta, in provincia di Siracusa, dove anche lì è un argomento che nessuno tende a, ad affrontare, i media figuriamoci se ne parlano, e lì è una situazione di inquinamento, di disastro ambientale tre volte peggio di Taranto, per cui insomma A questo punto ci diamo appuntamento per quando sarà pronto, ci dà informazioni? Magari, va bene, sì. Va bene. Allora Francesco, con questo appuntamento ci salutiamo e un abbraccio e a presto. Grazie, grazie a voi, grazie mille per avermi dato la possibilità di raccontarvi del mio lavoro. È stato un piacere. A presto Francesco, ciao. Ciao, ciao. Francesco Russo, regista del documentario Zero Per. Eccoci con Andrea Gadaleta, regista del documentario Destination de Dieu. Ben ritrovato Andrea. Ciao Federico. Come va? È un piacere essere tuo ospite. Un saluto a tutti e a tutti. Un documentario che ho avuto modo di vedere alla scorsa edizione del Clorofilla Film Festival, che tra poco sta per ripartire. Raccontacelo un po', Andrea. Allora, Destination de Dieu è un documentario breve. L'ho girato nel 2013, fra luglio e novembre all'incirca, poi è stato pubblicato l'anno scorso, nel 2014, intorno ad aprile, quindi insomma è più di un anno che gira per festival, eventi, insomma situazioni di vario tipo. È un documentario, diciamo, che è stato girato in una baraccopoli pugliese, quella conosciuta col nome di Granghetto, che si trova vicino Rignano Garganico, insomma nella zona della provincia di Foggia, della Capitanata, ed è stato girato durante i mesi di raccolta del pomodoro, quindi di maggiore affluenza di manodopera, insomma i lavoratori dell'agricoltura. Quando ho girato c'erano circa 1500 persone, 1400-1500 persone in questa baraccopoli, di cui molti erano rifugiati, molti diciamo migranti che stanno da tanti anni in Italia, che sostanzialmente si spostano a seconda delle stagioni di raccolta, della stagionalità di raccolta dell'agricoltura, da Rosarno d'inverno, poi d'estate a Foggia, oppure muovendosi nelle grandi città. E, diciamo, l'obiettivo di questo documentario, almeno diciamo quello che mi ha spinto a farlo, era diciamo provare ad affrontare questa questione non tanto da un punto di vista giornalistico, scandalistico, come solito diciamo affrontare la questione migrazione del lavoro in Italia, ma cercando insomma di dare voce in maniera più orizzontale possibile agli abitanti del ghetto, anche perché poi i ghetti sono la normalità insomma delle campagne pugliesi da più di 10 anni. In Capitanata ce ne sono vari, ce ne sono 6 o 7, per un totale di 6-7 mila persone insomma durante l'estate. Io diciamo ho provato ad avere un approccio il più aperto possibile, concentrandomi più sul processo, sul prodotto piuttosto che sul prodotto. Io insomma ho cercato di impostare un laboratorio di scrittura partecipata nel ghetto, stando lì diversi mesi, e abbiamo provato a girare una fiction diciamo interpretata da vari abitanti del ghetto. In realtà non ci siamo riusciti fino in fondo, anche se poi abbiamo girato insomma delle scene veramente molto belle, ma non le abbiamo inserite, non le inserite nel documentario. Spero insomma in qualche modo di riuscire a finire poi anche questo progetto, però insomma era importante che tutta una serie di testimonianze, di interventi di vario tipo insomma delle persone che abitavano nel ghetto, insomma ho pensato fosse comunque importante far uscire questo tipo di lavoro. Quindi insomma è una raccolta di testimonianze di abitanti di questa baraccopoli nel 2013. Ecco, rispetto a questo lavoro poi non so se hai continuato a seguire le vicende legate a questo tipo di realtà. Volevo chiederti se in questo caso, rispetto alle riprese che sono state effettuate nel 2013, ad oggi la situazione, se si è evoluta, se è peggiorata, se è rimasta intatta. Diciamo che la situazione non si è evoluta molto, nel senso che più o meno queste piccole, mentre diciamo tanti anni fa, più di 10 anni fa, c'erano casolari occupati, diciamo piccole case o baracche sparse, roulotte eccetera, che ospitavano i lavoratori, man mano che diciamo il settore si è espanso, quello del pomodoro, quindi diciamo è diventato un settore industriale enorme. Stiamo parlando del terzo produttore al mondo, diciamo, di pomodori, da industria, insomma, quello italiano, in particolar modo concentrato nella Capitanata. E, diciamo, la situazione negli anni è stata quella di concentrare i lavoratori nei vari ghetti, quindi man mano sono diventati sempre più grandi, quindi diventando in qualche modo la normalità. Diciamo, io sì, essendo pugliese, seguo in vario modo e fasi alterne queste situazioni. L'anno scorso ci sono solo passato, ma pochi giorni, perché effettivamente era stato inaugurato, diciamo, un intervento regionale, quello di Capo Frighet Off, insomma, che voleva in qualche modo chiudere i ghetti trasferendo poi i lavoratori in delle tendopoli, in questi sorti di campi diffusi. In realtà, diciamo, è stato un intervento abbastanza fallimentare, questo l'ho visto anche con i miei occhi, perché chiaramente già l'idea di poter chiudere un ghetto presuppone, diciamo, un errore di fondo, per cui, diciamo, un ghetto, una baraccopoli non è qualcosa che si può chiudere. Poi conosco anche bene, insomma, la situazione degli Islam africani, chiaramente gli interventi che si possono fare sono di altro tipo, per cui, insomma, i ghetti dove stanno ancora e chiaramente questo periodo, proprio questo periodo dell'anno, sono quelli di maggiore affluenza. Chiaramente lì questo tipo di posti esiste ed esisterà finché chiaramente c'è il lavoro nero, sono luoghi funzionali a un certo tipo di sfruttamento nell'agricoltura, per cui il caporale recluta i lavoratori al ghetto, sì. Per cui questi sono luoghi di reclutamento, luoghi di organizzazione in qualche modo scientifica, no, dello sfruttamento in agricoltura, abitati chiaramente soprattutto da stranieri, però insomma non solo africani. Il Gran Ghetto è abitato da africani, insomma, nigeriani, senegalesi, ghanesi, maliani, ma insomma ci sono anche ghetti di bulgari o insomma di altra provenienza, di nazionalità. La situazione più o meno è più o meno la stessa: si svuotano d'inverno, tranne alcuni che rimangono numerosi, tipo quello dietro a Borgo Mezzanone, perché insomma è attaccato e alle spalle, diciamo, del CARA, uno dei più grandi CARA, insomma, che ci sono in Italia, quello di Borgo Mezzanone, e poi si riempiono, diciamo, in questo periodo, durante l'estate. Senti, in chiusura, Andrea, ci lasci dei riferimenti per saperne di più sul documentario e poi sul tuo lavoro più nel complesso? Per quanto riguarda il documentario, diciamo, i miei lavori, basta cercare il mio nome e il nome del documentario, sì, insomma, sì. I principali social network, insomma, sono quelli, sì, in cui si possono trovare informazioni, eccetera. Posso, se qualcuno vuole proiettarlo, dal momento che, insomma, ho rallentato la distribuzione, chiaramente mi può contattare privatamente, diciamo, sperando possa essere sempre, insomma, questo documentario uno stimolo, uno strumento di discussione, di confronto, insomma, di conoscenza dell'argomento. Poi quest'anno c'è anche l'intervento che si fa ogni anno, quello di Radio Ghetto. Penso che sia Rete Campagna in Lotta, sia Radio Ghetto siano stati ospiti di numerose vostre trasmissioni. Anche quest'anno stanno facendo, sì, organizzando questo intervento in cui c'è una radio, appunto Radio Ghetto, che trasmette dal ghetto. Anche lì c'è una pagina Facebook, un sito internet, per cui insomma si possono trovare contatti anche per chi voglia in qualche modo intervenire, conoscere questa realtà o sviluppare dei progetti in campagna. Insomma, questi sono i principali riferimenti. Bene, Andrea, un abbraccio, a risentirci alla prossima. Anche a te, a presto. Ciao. Ciao Federico. Andrea Gadaleta, regista del documentario Destination de Dieu. Maurilio Mangano, regista del documentario Internat. Ciao Maurilio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno, grazie. Mi interessava questo tuo lavoro, se non sbaglio, dal Trieste Film Festival. Ad oggi ho cercato di sistemarlo in programmazione, ci siamo riusciti. Raccontaci un po' di questa storia, Maurilio. Questo è un film ambientato in Georgia, nella Georgia contemporanea. che in realtà parla di una famiglia che vive nel Kutaisi in una specie di bolla temporale, nel senso che sono famiglie di profughi dalla guerra d'Abkhazia del 93 e che ancora vivono in dimensioni precarie, ovvero in ex scuole, in edifici occupati dopo la fuga dall'Abkhazia, che è stato il teatro di una guerra civile pesantissima dopo il disgregamento dell'Unione Sovietica, e che ancora vivono nell'attesa di ritornare nella loro patria. Quindi questo è il film, racconta la storia di una famiglia di questi 300.000 circa profughi che arrivarono dall'Abkhazia in territorio georgiano, e che è cresciuta in 20 anni, ragazzini che sono arrivati all'epoca piccolissimi, sono cresciuti in questi 20 anni dalla fine della guerra con questo mito del ritorno alla terra promessa. Quindi è una bolla temporale, nel senso che vivono realmente in uno spazio e un tempo che sembra per loro essersi fermato, ecco. Come sei venuto a conoscenza di questa storia e come hai deciso poi di filmarla? Beh, diciamo che io sono palermitano e Palermo ha una tradizione lunghissima di reciproci aiuti con la Georgia, nel senso che nel 68 addirittura i georgiani, per il terremoto del Belice, offrirono l'ospitalità per le famiglie disagiate del Belice per passare delle estati in Georgia, che all'epoca dell'Unione Sovietica era un paese molto famoso per le attrattive turistiche, eccetera. E nel 91, quando scoppiò questa terribile guerra, che poi fu una guerra civile più questa guerra d'Abkhazia, che è una guerra di indipendenza di questa piccola regione del nord della Georgia, nel 91 il comune di Palermo si propose di offrire ospitalità per ogni anno, per 3 mesi l'anno, ogni estate, ai bambini, figli dei profughi con traumi di guerra, eccetera, che negli anni, appunto, dal 91 fino a quando non fecero 18 anni, continuarono a venire qua a Palermo e per passare questi 3 mesi, diciamo, di relax estivo. E ho conosciuto uno di questi ragazzi, che già era diventato abbastanza grande, che poi sarebbe diventato uno dei protagonisti del mio film. Quindi inizialmente la storia del film doveva partire anche da questo racconto, appunto, di queste estati palermitane. Anche se poi in realtà, quando ci siamo ritrovati con la mia troupe lì in Georgia, in questo ambiente, in questo internat, che è appunto un collegio, insieme alla sua famiglia in questo luogo, abbiamo pensato che forse potevamo soffermarci anche a raccontare attraverso quell'unico edificio tutta una storia molto più ampia, che è quella dei rifugiati, e dei rifugiati interni ai propri stessi paesi, cioè quei rifugiati di uno stesso paese che sono rifugiati internamente al proprio paese. Ecco, proprio a questo proposito volevo chiederti quali sono i livelli di integrazione rispetto al luogo in cui sono arrivati e di cosa vivono questi 300.000 profughi. Beh, diciamo che vivono di un sussidio minimo intanto. Poi i ragazzini che sono arrivati a circa 8 anni, 7 anni così, evidentemente si sono comunque, la Georgia, come l'Italia, è suddivisa in regioni, ogni regione ha la sua particolarità. Quindi chi è andato per esempio a Kutaisi, che è in Imereti, dove è appunto l'internat, ma ci sono, in questi luoghi sono ovunque, dove ci sia un ospedale, un ex scuola e così via in tutta la Georgia, i bambini, dicevo, sono cresciuti un po' più legati alla regione in cui sono arrivati nel 91 fino al 93. Ma la cosa veramente pazzesca che abbiamo riscontrato lì è il fatto che, anche se continuano a vivere oggi dopo 20 anni in una regione altra, ogni giorno per loro è come un dover ripetere un mantra, e il mantra del ritorno alla terra promessa, che passando gli anni, ricordo soprattutto nei ragazzi che oggi hanno 30 anni, ogni anno che passa, quindi sono arrivati che avevano sì e no 10, 9 anni e così via, ogni anno che passa continuano a costruire un tassello mitologico in più di questa Abkhazia, che quindi è diventata una terra veramente in cui tutto era possibile, tutto era ricco, tutto era fantastico. Quindi vivono sempre con questa doppia personalità quasi questa schizofrenia del questo sdoppiamento della personalità, sì, del vivere in un luogo con questa aspettativa che oggi è più che mai lontana visto i rapporti con la Russia, ma con questa aspettativa che da un giorno all'altro si tornerà costantemente, ogni giorno, ogni brindisi, ogni festa, in qualsiasi momento della giornata si dice tanto un giorno torneremo alle nostre case in Georgia, anche se si sa che sono state, cioè in Abkhazia, anche se si sa che sono state evidentemente distrutte o non esistono più o sono parte integrante ormai della Repubblica de facto Abkhaza. Senti Maurilio, immagino che hai avuto un percorso festivaliero, volevo sapere se ci sono c'è un calendario di proiezioni pubbliche o una qualche forma di distribuzione del documentario. Dunque, noi abbiamo avuto un percorso un po' a zigzag, nel senso abbiamo a dicembre abbiamo terminato realmente il film e quindi a gennaio siamo stati a Trieste. Adesso andremo a Melgaço, al Festival di Melgaço in Portogallo, e siamo ancora in attesa di altre risposte, perché diciamo che effettivamente abbiamo cominciato a muoverci in questo senso da subito dopo Trieste, cioè diciamo da dicembre, da gennaio, quindi ora siamo in attesa di avere alcune risposte. Stessa cosa per la distribuzione, abbiamo un distributore che è la Vitagraph, ma che stiamo un attimo ancora valutando, ecco. E ci dai dei riferimenti internet? Di riferimento una pagina Facebook, già è qualcosa, cioè. Tutto, che è della SOAG Film Group, che è la piccola produzione mia che ha prodotto questo documentario, dove c'è un bel po' di materiale. Bene. E comunque ci sono, basta cercare internet, anche su Facebook c'è la pagina del film dove ci sono un po' di materiale, e soprattutto ci sono anche le date via via aggiornate di quelle che saranno le proiezioni. Bene. Maurilio, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie a te, grazie mille. Ciao. Ciao, ciao. Maurilio Mangano, regista del documentario Internat. Francesco Don Giovanni, regista del documentario Elegie dall'inizio del mondo, Uomini e alberi. Francesco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a te, ciao e saluto a tutti gli ascoltatori. Un bel titolo, anche questo da un festival online, via Emilia Doc Fest. Raccontaci un po' di questo lavoro. Ma intanto il lavoro in realtà è una trilogia, sì, si chiama appunto Regie dall'inizio del mondo, è Uomini e alberi il primo episodio, che ho realizzato ormai un paio d'anni fa, e ora sto lavorando alla preproduzione del secondo episodio e poi speriamo di arrivare anche al terzo. Ed è un lavoro che sto realizzando a partire da un archivio storico, una parte di pellicole di questo archivio. L'archivio è un archivio di interesse nazionale, riconosciuto da qualche anno di interesse nazionale, di Domenico Notarangelo, che è uno scrittore e un giornalista lucano, materano. Il suo archivio è molto ricco e al suo interno ci sono moltissimi elementi da testi e fotografie, e poi una parte importante anche relativa ad una serie di pellicole. E io ho potuto iniziare a studiare, a guardare questo archivio, ed è venuta fuori questa idea di questo primo lavoro, Raccontaci un po' di questo archivio, sì. Insomma, mi sembra una sì, bella miniera di... Sì, ma magari può essere utile intanto dire qualcosa su Domenico Notarangelo, perché Domenico Notarangelo, sì, esatto, è classe 1930, e lui è stato uno scrittore, giornalista, inviato dell'Unità negli anni 60 e 70 per la Basilicata, ed è stato anche il dirigente del PC in quegli anni, e lui appunto in quegli anni coltivava la passione per la documentazione sia fotografica che in pellicola, e in questi anni appunto ha girato diverse riprese, soprattutto andando a testimoniare la vita, i costumi della provincia materana di quegli anni. Sì. Poi a questo si aggiungono anche una serie di collaborazioni importanti che lui ha avuto, in particolare lavorando al Vangelo secondo Matteo con Pasolini e anche alla realizzazione del Fien di Rosi, Cristo si è fermato a Reboli. Mm-hmm. E quindi questo archivio appunto è stato soprattutto studiato e analizzato nella parte fotografica. Io sto iniziando a lavorare sulla parte di pellicola. Senti, per quanto riguarda questo rapporto tra uomini e alberi, su cosa ti sei soffermato? Allora, intanto c'è una premessa fondamentale. In questo lavoro il materiale di archivio è tutto dedicato ad una festa molto particolare, molto importante. Sì, sì. Che è una festa che si tiene in questo paesino della provincia materana, che si chiama Cettura, e questa festa è un nome, diciamo, popolare, la festa del maggio. In realtà è una festa di origine antichissima, molto probabilmente longobarda, comunque medievale, che nel corso dei secoli ha avuto, diciamo, una serie di mutazioni, e incrociando anche poi in un certo momento, diciamo, un aspetto anche cristiano, ecco, diciamo, una forma di sincretismo con la religione cristiana, è fondamentalmente una festa della festività. E quindi la festa, cioè, in realtà è molto complessa, sarebbe lungo descriverla. Però la parte essenziale consiste appunto nel fatto che gli abitanti di questo paese, a Cettura, il giorno della Pentecoste si spostano dal paese e vanno nei boschi che circondano questo paese, dei boschi fantastici, sembra veramente un piccolo paradiso terrestre, e vengono scelti degli alberi che vengono portati in paese, e questi alberi poi vengono uniti come segno di propiziatore di fertilità, ecco, all'inizio della primavera. Mm-hmm. Senti, è un sì, dimmi. È un rituale che ha un suo peso nella società del paese, e anche, immagino, un'attrattiva turistica. La festa è fondamentale proprio per l'identità culturale del paese. Sì. E negli ultimi anni ha iniziato, anche se in maniera molto lenta, un percorso di conoscenza anche dal punto di vista turistico. Però le immagini su cui ho lavorato sono le immagini degli anni 60, le prime immagini in pellicola della festa, il film ci dà un'immagine della festa classica, diciamo così, di come era appunto negli anni 60, sostanzialmente immutata da secoli. Ecco, quali sono le suggestioni di una festa che viene da così lontana, da così lontano, rispetto anche alle immagini degli anni 60? Ma la suggestione fondamentale è proprio il rapporto tra gli uomini e la natura, ed è l'aspetto che più interessava in partenza, e anche il titolo Uomini e Alberi appunto richiama questo rapporto strettissimo tra gli uomini, in particolare poi, diciamo, con i contadini, ecco, perché è una festa legata soprattutto appunto al mondo contadino, e quindi questo rapporto stretto, simbiotico e di grande rispetto tra la natura e l'uomo. Mm-hmm. Senti, ci accenni qualcosa anche alle prossime due tappe di queste elegie? Sì, la seconda tappa sarà un lavoro dedicato alla vita nei paesi. Notarangelo ha filmato appunto la vita in questi tanti paesini disseminati della provincia materana, e questi materiali sono molto interessanti perché appunto viene fuori un'immagine di questi paesi, allo stesso tempo appunto elegiaca, però anche molto sofferta, di questi paesi che sembrano molto vicini al Cristo di Levi, o appunto al Pasolini del Vangelo secondo Matteo. Mm-hmm. E il terzo episodio sarà dedicato invece a tutti gli aspetti religiosi, le feste prettamente religiose, a questa fortissima questo fortissimo legame tra le popolazioni di questi paesi e la vita religiosa. Vita religiosa, come dicevi, è di origine antichissima e pagane, probabilmente. Sì, molto spesso appunto queste feste si incrociano percorsi diversi. La festa del santo incrocia molto spesso una festa legata appunto a momenti di passaggio importanti nel corso dell'anno, legato soprattutto alle stagioni, alla festa dell'albero di acettura. Bene, Francesco, per saperne di più su internet e i tre capitoli delle elegie e Uomini Alberi in particolare, ci dai dei riferimenti? Ma sicuramente su Facebook ci sono le pagine, poi c'è il mio sito Francesco Lanzoni WordPress, e c'è anche il sito della mia casa di produzione, che è murexproduction.com. Benissimo, e allora ci sentiamo per le prossime tappe. A presto, grazie mille per l'intervista. Ciao Francesco, a presto. Grazie, ciao. Francesco Don Giovanni, regista del documentario Elegie dall'inizio del mondo, Uomini e Alberi. In collegamento con Pietro De Tilla, regista del documentario Unità di Produzione Musicale. Pietro, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille. Tra l'altro poco tempo fa ci eravamo occupati di un altro lavoro, di un progetto un po' più articolato che vede coinvolte più persone, giusto Pietro? Sì, è un progetto che coinvolge NC Film, che è un collettivo di filmmaker. Nello specifico siamo io, Pietro De Tilla, Elvio Manuzzi, Tommaso Perfetti, Guglielmo Tupia, Chiara Tognoli e Giulia Lamarca. Sì. In collaborazione con Enrico Gabrielli, che è un musicista, e Sergio Giusti, che è uno scrittore teorico della fotografia, si occupa insomma di immagine. Sì. Tutto tondo. L'ideazione del progetto è proprio di Enrico e Sergio, quindi Enrico Gabrielli e Sergio Giusti, che ci hanno incontrato, che noi conosciamo nello specifico Sergio per un'amicizia insomma che ci lega a lui, e pian piano in un'annata di incontri e di cene abbiamo messo a punto il progetto, pensando che noi di NC Film la regia visiva, e invece Enrico e Sergio hanno ideato proprio la struttura e la forma che Unità di Produzione Musicale doveva avere, che magari vi spiego brevemente. Esatto, ecco. L'idea partiva da una precedente performance che Enrico e Sergio hanno messo in scena in un posto a Milano, praticamente in una cascina di Milano in forma ridotta. Dopodiché hanno pensato di farne un vero e proprio film. La performance consisteva in questo: c'è un'organizzazione, l'idea era quella di prendere una fabbrica e all'interno di questa fabbrica produrre qualcosa che non fossero bulloni o altro, i prodotti che escono di solito da una fabbrica, bensì produrre musica. Quindi 72 musicisti in una giornata di 8 ore di lavoro, attraverso una turnazione che veniva pensata e strutturata, producevano musica in continuità, a parte una breve pausa pranzo di un'ora. Venivano divisi in tre gruppi. Un gruppo scriveva, quindi c'era un turno di scrittura, un gruppo eseguiva quello che veniva scritto, e un altro gruppo era in pausa, seguendo proprio quella che è proprio la produzione industriale, l'organizzazione della produzione industriale. Il progetto era ed è stato molto aperto, nel senso che a parte questo schema, questa architettura, non abbiamo vincolato, eravamo molto aperti a vedere quello che poteva accadere, ed eravamo anzi preparati ad assistere a una continua cacofonia. Che è effettivamente avvenuta nei primi turni, ma anche quasi fino alla fine, nel senso che i cosiddetti musicisti operai hanno tentato di organizzare qualcosa, di indirizzare la loro produzione musicale verso un'armonia o individuare insomma un linguaggio da esprimere. Tuttavia, così come nella società reale, questa piccola performance, questo piccolo esperimento psicologico anche in qualche maniera, ha prodotto una diversità, secondo me, di risultati. Sono stati poi quelli di arrivare alla fine ad un turno di silenzio, che poi si è interpretato o come un fallimento, altrimenti come un successo, a seconda dei punti di vista. Senti, dal punto di vista musicale è uscito fuori anche qualcosa di apprezzabile? Sì, diciamo che da un certo punto in poi i musicisti, attraverso un loro meccanismo organizzativo, attraverso diversi segnali che si davano in scrittura per poter produrre degli spartiti di un certo tipo, o anche semplicemente attraverso l'ascolto, sono riusciti nei turni finali, diciamo, a produrre anche dei pezzi insomma armonici, gradevoli in qualche maniera. Tuttavia, insomma, è stato un esperimento che si è aperto anche a una vera e propria sperimentazione musicale, secondo me, dal mio punto di vista. Senti, quindi è stato comunque un successo, perché nell'immaginario pensare di combinare insieme la serialità di un lavoro magari in catena di montaggio come è quello di alcune fabbriche ottocentesche e invece la musica con che ha un po' regole un po' diverse, metterle insieme era piuttosto curioso come esperimento. Sì, infatti l'idea di Enrico partiva proprio da questo, cioè irrigimentare un lavoro che viene definito un lavoro libero, artistico, insomma, che di solito non si vincola ad alcuna regola, irrigimentarlo in quelle che sono proprio le regole meccaniche del meccanismo, no? E un po' partendo anche dall'ispirazione di quello che è forse anche la professione del musicista oggi, per cui questa libertà non esiste effettivamente forse più, non esistono delle regole subdole, inconsce, anche in qualche maniera, che guidano verso una produzione di un determinato tipo. Noi l'abbiamo voluta palesare come cosa, eppure effettivamente c'è, una cosa che si è affermata fondamentalmente era la voglia di esprimersi in qualche maniera, no? Quindi questo desiderio di espressione ha avuto la meglio, non lo so. Però sicuramente da un certo punto in poi della performance l'individuo ha tentato di opporsi alla macchina. Noi abbiamo pensato anche una vera e propria macchina, anche visivamente una macchina, c'era un grosso carrello che percorreva, anche una macchina cinematografica rispetto al nostro cinema, adesso parlo dal punto di vista del produttore di immagini. Abbiamo pensato a questo carrello, per esempio, che per 100 metri percorreva la fabbrica ed andava continuamente avanti e indietro, perché all'interno della performance erano i musicisti che erano gli operai, ma anche noi che ci occupavamo della fotografia, della realizzazione del prodotto, eravamo in tuta da lavoro, tutti questi erano in tuta da lavoro, c'erano diverse tute, le tute blu erano le classiche tute blu che erano i musicisti operai, le tute beige erano i fonici, i direttori della fotografia, i filmmaker, e invece poi dopo c'erano i camici bianchi che erano i capi reparto, c'era un capo reparto esecuzione, un capo reparto scrittura e due capi reparto, ciascuno per ogni settore di pausa. Allora, due cose, quindi, ti chiedo, stavi finendo però, hai detto quindi, no, stavi dicendo qualcosa? No. Due curiosità, uno, quanti sono stati materialmente i musicisti coinvolti in questa operazione, e l'altra, proprio in base alle cose che mi dicevi, questa rivolta creativa si era più dovuta a degli scatti individuali dei singoli oppure di piccoli gruppi che suonavano insieme e che creavano qualcosa di più libero? Allora, i musicisti coinvolti erano 72 in tutto, diciamo, quel giorno nella fabbrica eravamo più di 100 persone, perché a nostra volta erano presenti ovviamente tutti gli addetti, i tecnici, eccetera. I 72 musicisti a un certo punto hanno tentato di organizzarsi in gruppi, tendenzialmente, ovviamente ciascuno portando la sua proposta, la sua ipotesi, quindi è stata un po' una cosa, sì, organizzata a gruppi, è un po'... Il tentativo è stato proprio un tentativo di ascoltarsi reciprocamente, no? Di creare un linguaggio comune. Laddove tu avevi dato uno schema, e con questo schema loro hanno tentato di trovare proprio un linguaggio che potesse attraversarlo. Diciamo tendenzialmente a gruppi, però questo poi ha coinvolto altri gruppi, ciascun gruppo ha coinvolto un altro gruppo. Secondo me il tema centrale poi di questo esperimento è stato proprio il linguaggio e la comunicazione, anche come oggetto contemporaneo di speculazione, in qualche maniera, come gli individui riescono e tentano e possono comunicare fra di loro. Senti, rispetto a tutte queste ore di girato, come avete lavorato in sottrazione e in scelta anche dei filmati da mettere insieme? Sì, allora Unità di Produzione Musicale è un progetto che diciamo si è sviluppato nell'arco di 3 anni. C'è stata quella prima fase di cui ti parlavo, in cui ci siamo ritrovati noi cineasti e con gli ideatori del progetto e ne abbiamo discusso per diciamo un anno più o meno. Dopodiché c'è stato il giorno, no? Quindi il giorno della performance, 8 ore di performance. Dopodiché c'è stato un altro anno e mezzo, perché il materiale prodotto era moltissimo ovviamente. Tutto sì. È stato girato con 10 telecamere, delle macchine fotografiche che diventano delle telecamere, e quindi il materiale erano 70-75 ore di girato, no? Sì. In cui non c'era una vera e propria sceneggiatura, perché come dicevo prima noi abbiamo lasciato il progetto aperto, l'esperimento aperto, quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata individuare dei filoni narrativi seguendo magari dei personaggi. Quindi questo lungo percorso di montaggio in un primo momento si è sviluppato articolando diversi capitoli, cioè la nostra idea era quella di creare un prodotto che fosse diviso in capitoli, in 6 o 7 capitoli avevamo individuato, sì. Perché eravamo partiti nel montare il film unico, però non ci eravamo riusciti. L'articolazione in capitoli poi ci ha permesso invece di individuare una linea narrativa, alcuni personaggi che compaiono e ti portano fino in fondo, uno specificatamente che è uno dei capogruppi, l'operaio C1, ci ha condotto diciamo fino alla fine del film, riuscendo proprio ad attraversare delle linee sia musicali, diciamo dei ritmi musicali, che dei ritmi visivi, che dei ritmi veri e propri narrativi, cioè il presentarsi un obiettivo, il tentativo di raggiungere quell'obiettivo e il fallimento o meno nel raggiungimento di quell'obiettivo, però guardando quello che c'era sostanzialmente, cioè noi abbiamo costruito a partire da quello che avevamo in mano. Mm-hmm. Quindi forse questo indica che la narrazione è insita nella vita reale. Senti, non c'è bisogno di crearla dopo. Sì. Senti, per quanto riguarda eventuali date di proiezioni pubbliche, partecipazioni a festival, forme distributive, ci dai dei riferimenti internet? Sì, allora, il film è stato presentato diciamo in anteprima nazionale a Bologna, sì. Al Biografi Film Festival, esatto. Di Bologna. L'idea adesso, però siamo diciamo in discussione fra di noi, quindi potrebbe essere quella di partecipare al Filmmaker Fest, il festival di filmmaker che c'è a Milano a dicembre. Tutto comunque verrà comunicato attraverso il sito internet di UPM, al quale potete accedere dal sito internet di Enece, che è www.enecefilm.com. Benissimo. Da lì accedete al sito internet di UPM. Benissimo. E poi dopo eventuali festival futuri, però ovviamente ne stiamo parlando fra di noi. Poi a fianco ad UPM esiste questa diciamo questo oggetto che diciamo che lo affianca, che abbiamo presentato per la prima volta alla Leopolda di Firenze, che è Unità di Sonorizzazione. Di quello UDS. Avevamo parlato la scorsa volta, esatto. Sì. Quindi cioè essendo un film sui generis, che attraversa diversi linguaggi, si affianca a volte anche al linguaggio dell'arte, quindi ci sono alcuni spazi, quali per esempio l'Hangar Bicocca o altri, che potrebbero essere interessati a un progetto del genere, sì. Perché si presta diciamo a essere presentato non soltanto canonicamente nella sala cinematografica, ma anche in spazi dedicati all'arte, quindi gallerie o spazi che presentano mostre di vario tipo e genere. Bene, bene. Ci hai dato un bel po' di informazioni, Pietro. Io ti ringrazio, in bocca al lupo e a risentirci per le prossime. Va bene, ti ringrazio io. Ciao. Ciao Federico. Ciao. Pietro De Tilla, regista del documentario Unità di Produzione Musicale. Con lui chiudiamo l'appuntamento settimanale con Visionari, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Ci diamo appuntamento per la settimana prossima. Tutte le informazioni sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info alla voce trasmissioni visionari, sia sulla pagina Facebook di Visionari. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Buon proseguimento.